Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, l'appuntamento con la stampa periodica, settimanali, mensili, italiani e stranieri, alla ricerca di cose interessanti, cose belle da leggere, cose curiose che magari possono avere trovato meno spazio sui giornali quotidiani. Questa mattina vi voglio proporre un curioso rimbalzo tra più testate che probabilmente per caso, perché non ho identificato un evento particolare che possa aver scatenato questo, si occupano, dicevo, tutte di matrimonio. Si gira attorno al problema della famiglia, lo pone molto bene Vita, settimanale del settore non profit, del terzo settore, parla di Family Night, perché dice la famiglia doveva essere una priorità per il governo, è stata invece totalmente dimenticata dall'ultima finanziaria, perché la politica continua a essere così ottusa davanti a questa priorità della vita di tutti. Da qui poi all'interno dice il governo ha fatto troppo poco per le famiglie, anzi secondo la ricostruzione di Vita ha fatto quasi nulla, e anche i sindacati vengono criticati appunto da Vita per una poca decisione nel sostenere le ragioni delle famiglie. Allora, dimensione media della famiglia, perché Vita correda questo articolo di Sara De Carli con una serie di dati. La dimensione media della famiglia innanzitutto è scesa, come sappiamo, è scesa da 3,35 persone, 3,35 componenti nel 71 a 2,6 del 2001. Il tasso di fecondità per ogni donna è dell'1,3, dovrebbe essere dell'1,6 per garantire appunto uno sviluppo sostenibile, cioè la possibilità di ricambio da parte della popolazione. Le famiglie unipersonali, cioè composte da una sola persona, quindi i single, sono oggi una su quattro, sono passate dal 12,9% al 24,9%. Fuori dal percentuale con più brutalità, come riassume Vita, una famiglia su quattro oggi ha solo un componente. Le famiglie invece che hanno più di 5 persone sono scese dal 21,5% sempre del 71, sono passate al 7,5%. Tutti questi dati, insomma, fanno capire che in qualche modo la famiglia sta cambiando, che il concetto forse stesso di famiglia non è più uguale, al di là delle giuste richieste che il settimanale avanza a proposito di una maggiore tutela, di una maggiore considerazione nelle politiche fiscali, nelle politiche del welfare. Però succede un po' questo. Su Panorama, venerdì, avete forse visto, il matrimonio è come il mattone, un lavoro di Terry Marocco, Lucia Scaiola. Dice: le nozze rimangono un bene rifugio anche se calano le quotazioni, ci si sposa meno e ci si separa di più. Nonostante questo dato appunto dell'aumento delle separazioni, tuttavia la ricostruzione di Panorama è abbastanza positiva. Sostanzialmente si dice che il matrimonio in qualche modo tiene, il matrimonio sta tenendo. Non così, e poi magari torniamo un po' più nel dettaglio, L'Espresso, che nello stesso numero uscito lo stesso giorno dice: ragazze, non sposatevi, cioè sostiene chiaramente che la famiglia, il matrimonio non conviene alle donne, non conviene alle ragazze, che nel matrimonio hanno in realtà molto da perdere e poco da guadagnare. Ma siccome non volevamo restare solo in Italia, la questione viene affrontata anche sull'Economist, ed è la terza segnalazione proprio a proposito di convenienza o non convenienza dello sposarsi o meno, in un piccolo articolo intitolato Uomini e matrimonio, la famiglia in cifre. Si dice che le donne hanno un beneficio inferiore, un ritorno inferiore dallo sposarsi rispetto a quello che può essere garantito agli uomini, o se volete vederla al contrario, avrebbero più da perdere rispetto agli uomini in un matrimonio. Questo naturalmente non vuole essere da parte mia un consiglio a sostenere l'una tesi o l'altra, restiamo assolutamente neutrali per carità, vi rimando solo qualche dato e qualche segnalazione da questi tre settimanali. Allora, il matrimonio è come il mattone, dice innanzitutto il concetto di famiglia che sta cambiando, che è quello un po' affrontato da Panorama, ad impegnarsi nella famiglia sono rimasti in pochi, avvicinarsi all'idea di famiglia coincide sempre di più con la ben meno vincolante convivenza. Secondo l'Istat, le convivenze in questo momento sono 800.000, due terzi delle quali finiscono però con i fiori d'arancio, quindi in realtà poi la convivenza viene suggellata nel matrimonio. Gli altri preferiscono stare lontano da altare e comune. Quanti sono quelli che finiscono poi in comune o in chiesa? Ci sono dati del 2008, ci sono stati nel 2008 quasi 250.000 matrimoni in Italia. Di questi il 62,8%, diciamo un po' meno di 2 su 3, sono religiosi, gli altri sono civili. E il 13,2% delle unioni era di seconde nozze. I matrimoni civili sono molti di più al nord rispetto al sud. Al nord sono quasi il 50%, al sud non arrivavano, nel 2008, questo è l'anno dei dati Istat, non arrivavano al 23%. La durata media dei matrimoni che poi si sono conclusi con una separazione è di 14 anni, a cui corrispondono poi 17 anni di quelli conclusi con divorzio, ma il dato sembra riflettere in realtà il tempo di attesa. Ci sono stati quasi 150.000 figli coinvolti in separazioni o in divorzi. Questo è il dato, richiamato poi anche da altre fonti. Il Centro Italiano di Studi per la Famiglia segnala che più o meno un matrimonio su tre si rompe. Questo non sembrerebbe un buon viatico, diciamo, per chi si avvia a sposarsi, per chi ha deciso di sposarsi. Però, appunto, come poi chiosano alcuni sociologi sentiti da Panorama, anche se negli ultimi 30 anni i matrimoni sono diminuiti, anche se siamo l'unico paese al mondo dove per divorziare bisogna passare dalla separazione legale, beh, ci si sposa ancora. Vivere in coppia resta il modello ideale. Quindi, insomma, il matrimonio alla fine ha ancora una attrattiva, ancora una capacità di attrattiva che sarebbe rimasta intatta. A modificare un po' questo qua, vi dicevo, è l'Espresso, perché l'Espresso, in un articolo di Sabina Minardi, dice: ragazze, non sposatevi. Il concetto viene riassunto nelle righe sotto il titolo, nelle prime righe sotto il titolo: sono libere, autonome, guadagnano bene fino alle nozze. Da quel momento si sobbarcano il doppio del lavoro, fanno meno carriera, si ammalano di più. Ecco perché oggi per le donne il matrimonio non è un affare. Le fonti, va detto, di Sabina Minardi sono per lo più anglosassoni, quasi che effettivamente questa sfiducia nel matrimonio sia più presente magari in alcuni paesi che non in altri. Così si segnalano lavori di scrittrici americane e di sociologhe. Un'altra scrittrice che viene citata è Elizabeth Gilbert, che appunto ha intitolato il suo ultimo libro polemicamente Un armistizio con il matrimonio. Alla domanda conviene sposarsi, beh, insomma, la risposta che la Gilbert dà alle ragazze è sicuramente no, o quantomeno sposarsi conviene più agli uomini che alle donne. Leggo qui dall'articolo di Sabina Minardi sull'Espresso: gli sposati infatti vivono più a lungo degli scapoli, accumulano più ricchezza, sono più soddisfatti di quanto lo siano i single, resistono all'alcol e alle droghe e soffrono meno la depressione. Questi sono tutti gli effetti benefici che, secondo appunto le persone sentite da Sabina Minardi, il matrimonio può avere sugli uomini. Vista invece dalla prospettiva femminile, i vantaggi sono pressoché inesistenti. Ripeto, sto sempre citando da Sabina Minardi. Le donne si sposano per amore, pensando che saranno più felici, in realtà sprofondano nell'angoscia di più e prima di quanto capiti alle single. Hanno meno successo sul lavoro, hanno livelli di stress che non sono neppure paragonabili a quelli delle donne non sposate. La Gilbert lo chiama lo squilibrio dei vantaggi, dei benefit matrimoniali. Insomma, le donne perderebbero opportunità e invece gli uomini vincono all'otto, una logica che non sembra più accettabile. Ci sono dei dati poco lusinghieri per noi uomini: le donne italiane dedicano alla famiglia 5 ore e 20 minuti al giorno, giorno, dicono le statistiche, gli uomini solo 1 ora e 35, e purtroppo risultano in coda a tutti gli altri maschi europei. Ma tutto questo scetticismo, appunto, nei confronti del matrimonio, specialmente di fonte, come vi dicevo, inglese o americana, sembra derivare anche, ed è l'ultima citazione appunto dall'Economist a questo proposito, da un fenomeno che si sta verificando proprio in America. Che cosa succede? Che in questo momento, diciamo in questi ultimi anni, le donne hanno sempre più spesso un titolo di studio e quindi prospettive di guadagno migliori rispetto a quelle dei loro mariti, dei loro futuri mariti. Questo sta un po' creando appunto una disparità nei confronti del matrimonio, perché le donne ci arrivano con una innegabile attesa superiore di realizzazione, mentre gli uomini, sposando una donna che ha un livello di istruzione superiore, anche quindi una capacità di guadagno probabilmente superiore, finiscono per salire un gradino in qualche modo nella scala sociale, se volete, o quantomeno in quella economica. Questo viene segnalato da un libro che appunto viene citato dall'Economist, il libro di Richard Fry e Vera Kohn, e si occupa appunto delle prospettive economiche del matrimonio. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, parlavamo di famiglia, allora restiamo in qualche modo in famiglia, ma con qualcosa di meno impegnativo che non conviene sposarsi oppure no. Parliamo di paghette ai figli, perché probabilmente l'avete visto su qualche giornale nei giorni scorsi, sono usciti dei numeri, dei dati su quanto i personaggi famosi danno di paghetta settimanale ai figli. E i dati sono belli da vedere in qualche modo, perché naturalmente sono cifre inarrivabili per tutti noi, e quindi questa cosa viene ripresa con un certo dettaglio da Donna Moderna questa settimana. Paghette alle stelle, dice in perfetto stile Hollywood, i divi concedono ai loro bambini cifre vertiginose per gli sfizi settimanali. La più munifica Kate Moss, il più tirchio risulta Tom Cruise. Devo farvi subito sapere che la parola tirchio qui, l'aggettivo tirchio, sembra un po' mal posto. Imbattibile nelle spese la figlia di Madonna, che copia il look della madre. E allora il tutto è nato da un'inchiesta del Daily Mail, che è un giornale inglese. Correttamente Donna Moderna lo richiama, dice: un giornale inglese ha fatto i conti in tasca ai divi con prole, ha scoperto che le baby star cominciano fin dalla più tenera età a raccogliere l'eredità a rate. La top model Kate Moss mette in mano alla figlia Lila Grace, 7 anni, $13,000 alla settimana, mal contati siamo tra gli 8 e i 9.000 euro. La pop star Madonna non è da meno per le spese settimanali. Lourdes Maria, che è la figlia tredicenne, dispone di $11,000, in qualche modo prende meno della sua collega, dell'altra baby star, che ha solo 7 anni. Lei ha quasi il doppio degli anni e ha un patrimonio inferiore ogni settimana. Come fa una ragazza a gestire una simile cifra? Per lui non è difficile, in perfetto stile Material Girl, copiato dalla mamma, ha già uno stylist, cioè una persona che si occupa del suo look, va a scuola in limousine, adora i vestiti e gli accessori costosissimi, potendoseli permettere, perché no, viene da dire. Asel e Phineas sono invece i gemellini di 5 anni di Julia Roberts, contano invece su $8,000, essendo gemelli sono $8,000 a testa alla settimana. Il primogenito di Angelina Jolie si chiama Maddox, ha 8 anni, primogenito di Angelina Jolie e Brad Pitt, e può spendere $5,000 alla settimana. Alla fine l'unica che dà prova di relativa sobrietà è la coppia Tom Cruise-Katie Holmes, concede solo $1,000 a Suri, che sono poi $1,000 che vengono gestiti dalla tata, vengono spesi quasi tutti in videogiochi, ripeto sono $1,000 alla settimana. Suri però ha appena 3 anni e quindi, come segnala Donna Moderna, ne siamo certi, presto sarà in condizione di chiedere un aumento. E certo, come dire, tutto cambia rapidamente e quindi anche il figlioletto di soli 3 anni che deve accontentarsi di una paga così ridotta rispetto ai suoi pari grado vorrà adeguarsi. Così come racconta una storia di adeguamento il mensile 24 che trovate da ieri in edicola con il Sole 24 Ore. 24, come sapete, dedica ogni mese il suo numero a un tema. Questa volta il tema è usi e abusi del corpo. Usi e abusi del corpo è il primo di 10 temi, ma di questo poi parleremo domani più diffusamente. Di 24 parleremo nella puntata di domani, domenica, sempre alle 8:30, l'altra puntata settimanale di Magazine 24. Vi voglio però segnalare un articolo di una voce nota, notissima, proprio agli ascoltatori di Radio 24, Gigi Garanzini. Gigi Garanzini contribuisce anche lui con un bell'articolo a questo numero di 24 dedicato, come vi dicevo, al corpo, e si occupa di cambiamenti nel corpo negli anni. Da cosa nasce un po' questo articolo di Garanzini? Dall'aver messo a confronto anche soltanto visivamente, ma chiunque di noi può farlo richiamandolo alla memoria, le fotografie della nazionale di calcio di Messico 70 e quelle di Berlino 2006, di Germania 2006. Naturalmente sarà chiaro a chi ha in mente queste due fotografie come la diversità di stazza fisica, di imponenza fisica in qualche modo dei calciatori sia assolutamente evidente. La nazionale 40 anni dopo, dice infatti Garanzini, allora abbondavano fisici da impiegati del catasto, cioè diciamo non da atleti culturisti in qualche modo come qualche volta si vedono ora sui campi di calcio, e ancora segnati dai patimenti di guerra. Oggi masse muscolari ipertrofiche allenate a prestazioni estreme che spesso però portano in infermeria. Guardando questa nazionale di calcio un po' come cartina di tornasole, come specchio di come stiamo cambiati, di come stiamo cambiando, Gigi Garanzini ci racconta che appunto la prima grande nazionale del dopoguerra, quella del 1970, paragonata a quella di 40 anni dopo, in termini di statura e peso ha una differenza complessiva di una 60 centimetri, naturalmente a vantaggio della nazionale più recente, e di una 50 chili. Quindi la nazionale attuale è più pesante di 50 chili rispetto a quella del 70 ed è più alta di 60 centimetri, almeno ad erretta, scrive Garanzini agli album della Panini. Cifre che divise per 11, leggo sempre appunto da Garanzini questo numero di 24, raccontano di una ragionevole evoluzione della specie, con giocatori mediamente più alti di 5 cm abbondanti, più pesanti di 5 kg scarsi. Se parliamo invece di strutture, di masse muscolari, il discorso cambia. A parte Facchetti, era un atleta fuori norma per quei tempi, i due simil panzer azzurri erano Riva in attacco, Burnic in difesa. Oggi dal punto di vista fisico il primo non sarebbe Rombo di Tuono, né il secondo La Roccia di allora, sarebbero tuttora presentabili, così come, avverte sempre Garanzini, Bertini e Boninsegna, ma De Sisti, Mazzola, Rosato, Domenghini potrebbero passare per impiegati del catasto. Il discorso si può allargare naturalmente ad altri sport, è quello che fa Gigi Garanzini. Vogliamo parlare di Berruti e di Bolt? Beh, evidentemente il divario fisico, della struttura fisica tra i due velocisti è siderale. Oppure mettere a confronto il fisico dei tre sommi mancini argentini del dopoguerra, a parità di bassa statura, spiega Garanzini, tra il Sivori degli anni 60, il Maradona degli anni 80 e il Messi del nuovo millennio c'è più di una mutazione genetica. Tutto questo è sempre e soltanto una cosa positiva, cioè è un progresso comunque, non sempre, perché avverte Piero Volpi, sentito appunto in questo articolo di 24, Piero Volpi ha una buona carriera calcistica tra la A e la C, poi una più prestigiosa nell'ambito della medicina sportiva, spiega che il corpo per aumentare in statura, per aumentare in peso, talvolta viene sollecitato troppo. Il potenziamento continuo attraverso tecniche nuove di preparazione e va bene, il ricorso sempre più generalizzato alla palestra, che in uno sport di destrezza va già un po' meno bene, è l'avvertimento di Garanzini. E Volpi è anche più categorico, si continua ad aumentare la cilindrata ma senza tener conto dei limiti del telaio. Se si pretendono prestazioni da Ferrari su una Panda, poi non ci si può stupire se saltano gli ammortizzatori o gli organi di trasmissione, cioè legamenti, tendini, menischi, muscolature ipertrofiche rispetto alle strutture non a caso mimetizzate dai bragoni che arrivano al ginocchio e da casacche sempre più ampie rispetto ai calzoncini corti e alle magliette attillate di un tempo. Questo è il gioco tra passato e presente che ci propone Gigi Garanzini su 24 da ieri in edicola con Il Sole 24 Ore, ma ripeto, domani mattina parleremo ancora a lungo di 24. E allora, a conclusione di questa puntata, di questa mattinata in cui abbiamo parlato molto di famiglia, conviene o no sposarsi, un po' di corpo, usi e abusi del corpo, è il titolo del tema portante di 24 per questo mese, una segnalazione piccola dal 7, dal settimanale che trovate con il Corriere della Sera, in Corea orario ridotto per fare i figli, non per accudirli, c'è scritto proprio per fare, il tasso di natalità più basso del mondo, 8,9 bambini ogni 1000 abitanti, la Corea del Sud affronta da parecchi anni il problema della crescita zero. L'ultima misura in favore della procreazione è stata presa dal Ministero della Sanità in occasione della Giornata Nazionale della Famiglia. Alle 19 esatte tutte le luci del Ministero sono state spente, i funzionari del governo sono stati invitati a tornare a casa, andate e moltiplicatevi. Un sistema direi abbastanza diretto, forse un po' brutale per incentivare la crescita, ma a questo punto viene da pensare, poi bisogna immaginare anche tutta una serie di condizioni al contorno, tipo quelle che appunto vi segnalavo su Vita, cioè politiche per la famiglia, politiche di sostegno, di assistenza per i figli. Il discorso sarebbe molto più lungo del tempo che abbiamo questa mattina, che infatti è finito. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia e Manuela Sicuro e Vittoria Mussini che mi hanno aiutato a preparare questa puntata. Ci sentiamo domani mattina.